31. La guerra sarebbe stata musica. Il reggimento era la formazione più grande che si potesse comandare a voce. Peter marciava e marciava, gonfiando il petto, mentre tamburi e cornamuse accompagnavano le evoluzioni sulla piazza d'armi. Nei primi giorni la fatica era stata improba. Sostenere lo stendardo del reggimento richiedeva vigore e dimenticanza di sé. Man mano che i giorni passavano, il corpo si abituava e la tempra di giovane uomo dei boschi si rafforzava. Ogni compagnia aveva uno o due tamburi e una o due cornamuse. Marcia lenta, marcia veloce, strut spey, reel. Quando più compagnie si univano, i musicisti venivano accorpati per scandire i passi e sostenere la fatica degli uomini. La musica dava forza alle gambe, rilassava le braccia contratte, scacciava i pensieri dalla testa. Era magnifico. Peter pensava che avrebbe potuto marciare per sempre. Finite le consegne della giornata, la truppa vagava per le vie della cittadina in cerca di birra. Prima dell'ora di cena, tamburi e cornamuse battevano le strade per avvertire i venditori che era ora di chiudere. Peter tornava al campo, sazio di birra ma affamato di cibo. Capitava che finisse tra le braccia di una donna di truppa, ma non ritrovava mai quel che aveva provato insieme alla fata della Torre di Londra. La musica apriva e accompagnava le giornate e le chiudeva, almeno finché qualcuno non si lamentava. Dopo cena c'era tempo per esercitare le dita e far volare la mente. «Come si chiama questa marcia, ragazzo?» Il sergente Bunyan aveva infilato la testa nella tenda senza chiedere permesso. Era un uomo corpulento e in là con gli anni, stretto nella divisa color aragosta. Peter posò il violino e si rivolse all'intruso con tono gelido. «Unfair, sergente, è una doppia giga e vi prego di non chiamarmi ragazzo». «Certo, scusate, è che vi vedo così giovane, signor Johnson. L'età di un tamburino, più o meno. Non intendevo mancare di rispetto». Peter vide che l'uomo era in buona fede, decise che quella faccia segnata gli piaceva. «Accetto le scuse, signore». Il sergente aprì il volto in un sorriso, piega più larga in mezzo a quelle che solcavano il volto. «Vi ringrazio e avanzo una richiesta, se non sono troppo sfacciato. Non potreste suonare buona musica scozzese?» Peter sorrise. «Signore, la buona musica scozzese è musica irlandese». Il sergente sorrise a sua volta e si accomiatò. Il ragazzo era in gamba. Era uno dei detti preferiti di Sir William. La buona musica scozzese è musica irlandese e anche le famiglie scozzesi più note hanno tutte sangue irlandese. Sir William era orgoglioso delle sue origini. Era anche orgoglioso di essere Warraghyllagay e di servire la corona. Sapeva fin troppo bene quello che certuni pensavano degli irlandesi, della loro dubbia fedeltà. Sapeva anche che gli scozzesi non erano visti in modo molto diverso. A Londra aveva sentito dire che gli scozzesi più in vista formavano una lobby che controllava il re. I londinesi chiamavano politica quelle dicerie, ma Sir William diceva che la forza di Britannia è quella di essere un regno unito. Il tempo avrebbe detto quali fossero i sudditi migliori e più leali. L'archetto fece vibrare le corde del violino. Unfair, la musica preferita da suo padre, il violino nuovo donato da sua madre. Suonare quella musica non gli era piaciuto un tempo. Roba da vecchi, ma ora le semplici scale di 5 note e i ritmi di danza uditi 1000 volte durante l'infanzia affioravano spesso sulle corde del violino, come salendo da quelle dell'anima. Nostalgia della madre. Difficile ammetterlo per un soldato, non per un giovane Mohawk. Nostalgia di Sir William anche, di Johnson Hall e dei boschi.